Oggi, scuola. Allora, siamo al capitolo 20, Siman 20, Safe 12, Mutebet. Abbiamo visto che ovviamente è obbligatorio per una persona rispondere alla Kedusha, ok? Quindi rispondere Kadosh Kadosh Kadosh. Abbiamo visto anche che ci si elevava un po' verso l'alto quando si diceva Kadosh Kadosh. Ah sì, avevo E visto. c'era un altro momento in cui si doveva rispondere alla Kedushah tra la Berachah di Mechaia Mettim e l'Edor Vador HaMiklel. Cioè, c'è una metodologia in cui si dice direttamente la Midah insieme al Chazan pubblicamente, ci si ferma dopo Mechaia Mettim, si dice la Kedushah, poi si continua con il attacco addosso o l'Edor Vador come abbiamo noi nel rito romano. E ovviamente si continua tutta la Midah. Adesso siamo in caso di un individuo che sta Mechaia Mettim, quindi tra la seconda e la terza Berakah, e il pubblico sta dicendo una Kedushah, ma che non è quella della Midah. Avete visto che nella Tefilah di Shacharit ci sono dei pezzi dove si dice Kadosh Kadosh, ma non è necessariamente la Kedushah. Per esempio, qua ne cita due che sono quello nello Yotzer. Se vedete, Sì. prima dello Shema c'è un Kadosh Kadosh, e c'è un Quello altro in secondo. una nuova lezione, e questo è proprio il brano. Quindi dice che se un individuo sta facendo la Amidah, la Shemona Esrei, cioè i 18 brani, ovviamente adesso non sono più 18, ma questo è il nome che è rimasto all'Amidah, Ma il Lo Ain HaTzor è stata aggiunta dopo. dopo che cosa? Uva Dopo i 18, e Lo Ain lezione. HaTzor. Ah, sì, no, l'ultimo Quindi brano, se. sì, però non consideriamo comunque quello là Appunto. come, non è un, cioè non ha la Sì, beraca infatti, finale. infatti. Allora, è finito, sta recitando la Midah, ovviamente da solo, e termina Mechaia Mettim nel momento in cui le persone recitano la Kedushah, ma non quella della Midah, ma quella di Ualezion, ok? Come abbiamo visto prima, lui si dovrebbe interrompere per dire la Kedushah. Invece no, o la Kedushah di Yotzer. Invece no, perché queste Kedushot sono shaveddice, quindi sono non equivalenti a quella della Midah, invano, diciamo, tra Quelle due che virgolette. abbiamo detto. Uva lezione e quella di Yotzer. Non sono le Kedushot vere che stanno all'interno della Midah. Se però le persone del pubblico stanno recitando la Kedushah di Musaf, nonostante lui stesso stia leggendo quella di Shacharit, il singolo potrà però rispondere insieme a loro al Kaddish. Ok? Quindi lui sta facendo Shacharit perché è arrivato tardi al tempio, il pubblico l'ha già fatto. Dice Mechaia Mettim, dice la Berakah, nello stesso momento il pubblico dice la Kedushah di Musaf. Lui deve rispondere, ok? È obbligato a rispondere solo se la Tefillah è quella di Musaf. Ok? Solo se è una Solo se Tefillah, solo se la Kedushah è all'interno di quindi una. Di una tefillah, ok? lui è obbligato a rispondere anche nel caso che diciamo che ci sia Mignan. Obbligato a C'è sempre rispondere? Mignan. No, sì, è obbligato a rispondere lo stesso. Allora, noi abbiamo visto che la Kedushah, a meno che tu non sei durante la Midah proprio, devi rispondere, ok? Non Cioè ci lui sono. interrompe la sua amità e Sì, risponde. perché tra il secondo e il terzo brano è permesso interrompere per dire la Kedushah, cioè il momento in cui noi diciamo la Kedushah, quindi è permesso proprio dirla, ok? Cioè, in qualsiasi momento devo interrompere per No, dire se la sta a Kedushah Modim, insieme al no. pubblico. No, se stai tra No, Mechaia senza Mettim, Mechaia secondo e terzo Mettim. brano, il momento giusto della Kedushah, Da Kedushah. il momento su. Invece si E poi vengono a sovrapporre le due riprendi dove hai Kedushah. lasciato. Cioè, No, lui riprende da dove ha devi lasciato. riprendere necessariamente da El HaKadosh, da Ah. Ledor Vador HaMiklel, perché lì sei arrivato. Sono arrivato là. Lì sei arrivato là. Si può fare, è una cosa che si fa Là. comunemente, quando magari non c'è tempo, sta finendo il tempo di Mincha, lo Shaliach Tzibur parte direttamente con la Kazara. Non fa la Midah, silenzio sottovoce per tutti, parte direttamente con la Kasarah e il pubblico la fa insieme allo Shaliach Tzibur. Come si fa? Non dici la Kedushah? No, la dici, ti fermi tra il secondo e il terzo brano. E poi, se c'è il terzo brano, si continua normalmente o a bassa Ok. voce oppure il Shaliach Tzibur continua ad alta voce e tu la dici a bassa voce. È una cosa che quando ovviamente non è, a priori non va bene, ma se sta per finire il tempo di Mincha oppure di Shacharit si può fare. A Ma se, volte scusa, capita. se non si dice, se è una questione di tempo e quindi Rochelle dice parte già a voce Sì, alta, diciamo, parte, la dice per tutti, la dice dice per direttamente con la tutti. Casarà. E in quel caso non si dovrebbe dire la Kedushah? No, in quel Ah. caso tu potresti pensare che non si dice la Kedushah, ma invece ti dice qua Si sì, perché tra il dice. secondo e il terzo brano tu la devi dire sempre la Kedushah, Ok. ok? Qui, cioè, Quindi nel si senso no, dice la l'abbiamo già Kedushah. visto prima. Sì, si dice tranquillamente. Ovviamente nel suo momento, infatti ce lo dice Certo. qua, che non è Uvale Zion e non è quello là contenuto nello Yotzer, ok? Invece però, e quindi potrà rispondere insieme a loro a Kadosh se lui sta facendo Shachrit anche se il pubblico sta facendo Musaf. Lo stesso vale per il caso opposto, e questo perché la Kedushah di Shachrit e Musaf sono equivalenti, ok? Anche se abbiamo una, diciamo, una diversa scrittura, ma comunque si può interrompere, tanto quello che tu rispondi, diciamo, è uguale, tra virgolette. Allora, cominciamo con il 21° capitolo, e ci comincia subito dicendo, come abbiamo studiato stiamo parlando di qualcuno che omette una preghiera, cioè qualcuno che non ha fatto una tefillah, una midah. Che cosa deve fare? Già l'abbiamo visto nel capitolo 18, che se qualcuno non ha fatto la tefillah bemezid, che vuol dire intenzionalmente, allora questa persona in nessun caso può recuperare una amidah, una tefillah, cioè non l'ha voluta fare, intenzionalmente non l'ha fatta, in questo caso, diciamo, tra virgolette, l'ha persa. Ma, Aval, se questa persona è considerata, l'ha fatto per, è considerata uno shogeg, cioè l'ha fatto per dimenticanza, o per ones, cioè un caso di forza maggiore, è successo qualcosa di molto particolare che gli ha impedito di fare la sua amità, oppure, scelta, questa persona ha sbagliato a dire la sua tefillah. È finito il momento, si è ricordato di aver fatto una tefillah sbagliata e quindi la sua tefillah non andava bene, quindi la deve ripetere. Allora questa persona deve tornare e ridire l'amidah, deve ripregare il pallel. Allora questa persona può, Yehol, rifare una tefillah di riparazione, tra virgolette, dopo la tefillah successiva. Spiego un pochino io, tanto lo spiega anche molto bene dopo il Kitzur, ma comunque me lo spiego un attimo. Uno non fa tefillah di Shacharit per i motivi che abbiamo elencato, non è che ci sono tanti motivi, Non cioè il volete, motivo tanto dopo la o recupero. shogeg, cioè che si è dimenticato proprio completamente, o ones, causa di forza maggiore, oppure doveva dire una Ha tefillah, detto ne ha un'altra. detta un'altra, non andava bene, la deve ripetere, ma è finito il momento di Shacharit, ok? È arrivato a Mincha, e cosa fa? Mica. Mincha, l'abbiamo vista adesso. E poi? Finita la tefillah di Micah, dice, Ripeto. ripete la amidah Amidà. di riparazione a quella che non ha fatto. Che è quella, però Quindi fa ripetemi. due amidot, Nello stessa però tefillah. se è L'ultima. passato il tempo. Sì. Soprattutto, Pure se è solo se è passato il passato il tempo tempo. per Stiamo parlando proprio l'amidot. nel caso Sì, in cui è questo passato il tempo. non l'avrei mai pensato. Sì, Perché Alain lo pensavo che sciabbè me lo era fai tutto dopo la legato al seconda amidah. tempo. Adesso è spiegato molto Se dici bene. Shachrit, ma non è Shachrit, invece Musaf, invece. Se Se per per uno uno di di questi questi tre motivi non l'hai tre detta, motivi non l'hai detta, appunto alla dici tefillah due volte la successiva successiva. Ma solo devi dire due l'amidà, amidot. eh? Solo Solo amidà l'amidà, per lo certo. shema non vale questa, stiamo Solo parlando quella dell'amidà, amidà, stiamo solo parlando delle quella. regole Non è relative che vai a all'amidà. ripetere l'altra. Devi dire E solo quella, l'amidà. No, quindi non Shachrit e non quella Musaf è che è, non uguale. quella che Shachrit allora e sì, Micah è uguale. ma Pensa dice due se volte. c'è un Moed che finisce e uno che comincia. Ah, Tu devi dire quella di quel ma momento. adesso è citato dopo, lo vedrà dopo il Ma Kitzur, comunque, fa scusa un proprio. secondo, se è la stessa amidà, perché qui comincia lo Shachrit e Micah è la stessa. C'è problema. Comunque, la dici due volte. Perché non Assolutamente una sì. volta sola? Allora, Dici anche due nel volte, abbiamo caso, capito bene. vi Anche se è uguale. spoiler una cosa, anche nel caso che per esempio tu è venerdì pomeriggio, non hai fatto Micah del venerdì, ok? È entrato Shabbat, devi fare Arvit, la midah è differente. Tu che dici? Dovresti fare quella di Micah, ma è già No, Shabbat? dici No. quella di Arvid due Ne volte. fai quella di Sì, Arvit due volte. quello dici, Spoiler un attimo. capito? Quindi è sempre due uguali, ne fai praticamente, in linea di Io massima. pensavo Adesso. solo di Mechol, pensavo, non pensavo In linea di che massima si fanno sempre le due. di Moed, Comunque, Moed o Modim. come abbiamo visto all'inizio, però non è sempre così. Cioè, ci sono dei casi o ones, forza maggiore, o shogeg, eccetera. Come diceva giustamente Alberto prima, se uno non l'ha fatta intenzionalmente perché aveva da fare altro, non può recuperarla, Non vale se ok? dici tanto poi la Anzi, recupero, tra virgolette, è no, non ho peggio perché problemi, ma farebbe senza una tefillah con delle brachot in diverse. vano. No, in vano. Una berakha levata là, cioè una qualcosa che non va bene, ha detto il nome di HaKadosh Baruch Hu senza motivo perché non può recuperare in quel caso. Quindi è necessario recitare prima la preghiera relativa a quel momento della giornata e solo dopo quella di compensazione. Per esempio, chi non ha recitato Shachrit, quando arriverà il momento di Micah, dirà prima Shmona Esrei per Micah, poi il Tachanun, subito dopo Ashre, qua mi sono informato, noi lo facciamo prima Ashre, quindi praticamente l'ha già detto, e quindi di nuovo l'Amidah per compensare a quella di Shachrit che invece non ha fatto. Stessa cosa per Quindi non Micah. subito, subito, dice queste altre cose e poi torna Fa indietro. Micah normalmente. Sì, Tachanun, se è una giornata che devi fare Tachanun, Asher Yoshve se non l'ha già fatto prima, poi basta, qui poi diciamo fa la E Amidah poi può per rimettere. compensare a Di quella di Shachrit che compensazione. non l'ha già fatto. Chi non ha invece omesso la preghiera di Micah dice allora tutta la preghiera di Arvit, poi attenderà il tempo necessario di 4 Amot, cioè di percorrere 4 Amot, Percorrere. scusate, che più o Sono meno due sono metri. 2 metri praticamente le Amot, quindi un tempo abbastanza corto, non può fare le attaccate insieme, ma deve aspettare questi pochi istanti, questi pochi secondi. Non reciterà Ashre perché Arvit non c'è Ashre, e ripeterà di nuovo la Amidah per compensare a quella di Micah che non l'ha fatto. Se invece la preghiera di Arvit, quella che non ha detto, allora dopo la preghiera di Shachrit, dopo aver fatto Tachanun, dopo Ashre, in questo caso, allora dirà la Amidah di compensazione ad Arvit, concluderà con l'Amnatzer, un altro salmo, e Uale Zion. Ok? Questi sono Il i... criterio è lo stesso, sembra cambiare, ma solo perché Arvit è diversa Sì. da, non ha quelle cose dopo, Sì, quei brani successivi. come, infatti Se no, rimarrebbe uguale. Ashachrit che è più simile perché c'è Ashre Certo. sempre, in questo caso fa prima Ashre e poi... Invece dice tutto, diciamo la conclusione la lascia dopo. Allora, adesso avete accolto tempo, vogliamo. Una domanda che ho visto, no? Ad esempio che qualcuno che non ha potuto fare Shacharit la mattina, mette le filime perché doveva andare a lavorare. Ho visto che qualcuno che metteva le filime faceva Shacharit nel momento in cui c'era Micah. Ho capito male io questa cosa qua Penso oppure... che, non lo so, non mi metto lettere, ma penso che hai visto qualcuno che metteva dei filin a Micah. No, quello... Allora non lo so, non lo so proprio. C'è la possibilità, ovviamente, se uno L'hai non visto ha. durante un Se non li abbiamo digiuno insieme, d'accordo? se li mette lì. No, no, In quel caso si mettono tutte e due con lei ne volte, parlo nel e... senso, il Ma digiuno proprio si se mettono due Shaul sta dicendo Micah e io non l'ho detto ancora, arrivo tardi, metto i tefilin, non volte. importa Allora quello credo che che faccia lì al Sibur. no, i tefilini le puoi mettere fino al tramonto, però comunque non ce la potresti far Micah quello che Ok, dici so tu. un po' dei casi. No, Shacrit, fai stanno Shacrit, facendo anche se Shacrit, c'è lì stanno al Sibur siamo sta facendo... facendo... Secondo me forse, perché Shacrit Questo è comunque c'ha un dei tempi pure Shacrit. Lo so, Abbiamo forse... studiato qua lo Shema è fino alla È terza fino alla ora terza ora. solare, l'Amidah è fino alla quarta Alla quarta. solare, poi abbiamo visto che c'è qualche eccezione fino a mezza giornata, fino alla sesta ora quindi, ma in linea di Metti massima i quarta ora tefilini l'Amidah. invece fino al tramonto, Puoi mettere sì. quindi probabilmente non sapeva sta No, cosa. perché c'ha talette di fine, sta facendo tutto sciagretto, alcolelle poi. Questo In teoria non so è dire. sbagliato, No, non giusto? lo so, non mi permetterei mai No, di dire neanche sbagliato, io, però però non l'ho per sentito, quello che noi chiederemo a abbiamo Rafshalom. visto, So, bisognerebbe sapere come bene. diceva giustamente lui, che c'è la possibilità di dire, cioè se uno ha messo i tefillin per qualche Cioè motivo tutto la il giorno mattina, puoi di mettere. Ones, Fino eccetera, alla prega sera. a Micah e si mette i tefillin a Micah. Nel caso di digiuni è ancora diverso, perché noi lo diciamo, li mettiamo sia la mattina, tranne a Tisha B'Av, li mettiamo tutti gli altri digiuni, li mettiamo sia la mattina che a Micah, sia a Shachrit che a Micah. Questo perché diciamo, i tefillin, i nostri maestri prima se li mettevano anche a Micah, li mettevano tutto il giorno. Tutto il giorno Poi è invece. cambiata questa cosa perché dopo mangiato, dopo aver bevuto vino, qualcuno non avrebbe avuto la stessa kavanah, la Fiducia, stessa buona. intenzione, oppure la stessa condizione fisica per Pura della vera mettere fiducia, sì. i tefillin. Quindi i nostri maestri hanno deciso di metterli solo a Shacharit. Ma anche perché ci stanno, scusa, Sì, anche vabbè. perché poi ci stanno quando vai a Yerushalayim o in giro. Contro qualche rava ti fa mettere i tefilì a qualsiasi... Mica ti La dice hai domanda, bevuto certo. vino o non hai bevuto vino. Ti fanno mettere i tefilì a Vabbè, là fai la tutte mitzvah, è le una ore. mezza... Beh, Là quando fai vai la al mitzvah, Kotel, dici la prima cosa apri la can... che mica domanda se hai bevuto o no. Vabbè, Quindi... comunque è circoscritta, non fai i tefilà. Ah, è Quindi vero, dici perché sono solamente di tefilin, l'Averaka e fai basta. tefilà. Nel caso dei digiuni a Micah, ovviamente non hai È la mangiato, non stessa. hai bevuto vino e in più non hai fatto berachot durante tutto il giorno. Quindi tu devi ovviare a questa cosa che devi dire qualche altra berachot. Quindi rimetti il Taled, rimetti i tefillin per per dire più bella cotta, e poi perché li puoi fare, perché in quella condizione non hai mangiato, non hai bevuto, eccetera. Questa persona sta a digiuno. No, proprio lui dice proprio sciacquito in un momento che non è sciacquito quando era in casa. Ok, diciamo, allora, prima abbiamo parlato di lo show gag, lo capiamo bene chi è colui che si è proprio dimenticato. Adesso vediamo il caso di Honest, il caso di forza maggiore, eccetera. Quindi quando è che una persona si può considerare che non ha fatto defilare per un caso di Honest, cioè di forza maggiore? Allora, se qualcuno non ha pregato pur non avendo ancora il tempo, perché pensava di averne a sufficienza dopo aver terminato il lavoro che stava svolgendo, quindi per esempio ho 20 minuti per farmi ca, metto a fare una cosa che me ne richiede 10, quella cosa mi chiede di più, ho passato il tempo, ok? E quindi tra una cosa e l'altra è trascorso il tempo utile, e qualcuno è rimasto occupato in un impegno connesso al denaro per evitare un danno economico, e ciò gli ha fatto oltrepassare il momento giusto per la preghiera. Questo caso è considerato un caso di Ones, ok? Quindi ha cominciato a fare qualcosa riguardante il denaro, però sapeva inizialmente che lui avrebbe finito, diciamo, nel tempo utile, ma così non è stato. Per non perdere il denaro, allora in questo caso è considerato un caso di forza maggiore. Ma a priori, se tu sai, anche se è un caso che perdi i soldi, se tu sai già che non riesci a fare minchà perché quella cosa in cui ti stai occupando è troppo lunga, a priori non puoi occupartene. Cioè prima fai minchà e dopo ti occupi di quella cosa, a priori. A posteriori la cominci, ci metti di più, puoi finirla quella cosa, ok? Scusate. Ok. Quindi... anche se è proibito lasciar trascorrere il tempo della preghiera per evitare una perdita di denaro. Queste situazioni sono considerate anche se di ones, di forza maggiore, e consentono un recupero, come abbiamo visto nel safe precedente. Lo stesso si può dire per uno stato di ubriachezza. Abbiamo già visto in precedenza, se qualcuno nel momento della defilà per qualche motivo ha bevuto un po' di più, eccetera, e quindi non può fare quel momento, allora è esentato. Abbiamo visto anche che se qualcuno stava male di corpo, non riusciva a fare, cioè nel senso non aveva problemi allo stomaco, eccetera, abbiamo visto che poteva essere considerato un caso di ones. Persino se costui abbia cominciato a bere in un momento proibitivo, vale a dire dopo che era già giunta l'ora della preghiera. Quindi è giunta l'ora della preghiera, quindi siamo l'orario di Minchà, tu non puoi bere finché non hai fatto la preghiera, ok? Finché non hai fatto la tefilà di Minchà. Bene, se lui ha cominciato a bere, anche se non poteva, è ubriaco, quindi dici no, la dovresti fare per forza, no, ci dice non la fare, non, è un caso di ones, la puoi recuperare alla tefilà successiva con le modalità con cui abbiamo visto. Vediamo qua, Zeo.